Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. L'occasione è stata l'occorrenza del trentennale dell'incidente di Chernobyl, ma insomma è difficile non pensare anche al fatto che mai come di questi tempi è apparsa concreta la possibilità che qualche malato di mente faccia esplodere un ordigno contenente materiali radioattivi, la famosa bomba sporca. Sta di fatto che pochi giorni fa l'ENEA ha presentato un nuovo laboratorio mobile dotato di soluzioni high-tech di ultima generazione per la gestione in sicurezza di materiale radiologico e nucleare. Ne parliamo con Alessandro Dodaro, che è responsabile della divisione tecnologie, impianti e materiali per la fissione nucleare dell'ENEA della Casaccia. Buonasera Dodaro. Buonasera. Allora, intanto parliamo di un laboratorio che sta in un furgone fisicamente, questo è l'oggetto. Che strumenti però contiene e soprattutto che cosa consentono di fare? Allora, gli strumenti presenti sul laboratorio mobile sono i più vari e permettono di caratterizzare praticamente qualsiasi cosa emetta delle radiazioni. Quindi abbiamo sistemi di spettrometria gamma per i radionuclidi gamma emettitori come il cesio e il cobalto, sistemi di misura neutronica per materiali quali plutonio o uranio. Per esempio materiali fissili, appunto, che emettono neutroni. E poi abbiamo anche dei sistemi per il monitoraggio della dose, in modo da garantire che gli operatori che intervengono in campo possano lavorare in tutta sicurezza. Ecco, quindi diciamo che intanto ci sono apparati per rivelare quindi vari tipi di radiazioni, che sono bene o male di quattro tipi, alfa, beta, gamma, e poi ci sono i neutroni, appunto. E poi dal tipo di radiazione, per esempio questi raggi gamma, voi vedete lo spettro, che è un po' come dire che colore è, se fosse luce visibile, e in base alla colorazione, detta brutalmente, riuscite anche a capire che cosa c'è dentro esattamente e anche i quantitativi eventualmente. Esatto, perché ogni radionuclide gamma emettitore ha una sua impronta e quindi una sua frequenza di emissione. A seconda della frequenza di emissione si può risalire al contenuto. Al contenuto, e a seconda della quantità invece di radiazione che misurate, capite anche quanta roba c'è dentro sostanzialmente. Infatti, questa cosa si fa tramite simulazioni in laboratorio e prove sperimentali in laboratorio. Perfetto. Prima di intervenire. Senta, viene da pensare che tutti gli oggetti contenenti materiale radioattivo siano in realtà ben tracciati, monitorati. In realtà non è così, soprattutto non lo era in passato. Quali sono gli oggetti radioattivi abbandonati in cui può capitare di imbattersi? I casi più frequenti sono quelli relativi ai vecchi rivelatori di fumo, che contenevano una placchetta di americio per il controllo della densità dell'aria, e i parafulmini di antica concezione, quelli fino agli anni 60, che avevano anch'essi delle targhette di americio 141. Oh, d'accordo, che servivano per ionizzare, per ionizzare l'aria sostanzialmente. Sì. Poi ci sono anche cose un po' più strampalate, mi diceva di un oggetto stranissimo, il bicchiere di radio. Il bicchiere di radio è capitato nel 2008 che i carabinieri di Roma abbiano sequestrato questo oggetto nel mercato di Porta Portese. C'era il simbolo radioattivo su e c'era scritto radium, quindi si sono insospettiti, l'hanno sequestrato, ci hanno portato in laboratorio. Ed effettivamente era parecchio radioattivo, mi diceva, insomma abbastanza, insomma. Sì, sì, diciamo che se si fosse rotta la sorgente, che per fortuna invece era inglobata nel bicchiere, si sarebbe potuta contaminare una piccola zona del mercato di Porta Portese. Caspita, ecco, e questo perché c'era la credenza che l'acqua resa ionizzata da queste radiazioni fosse più buona. Vabbè, il mondo è strano. Senta, di questi tempi si parla spesso, purtroppo, di bomba sporca. Voi sareste in grado di riconoscerne una, se ho capito bene? Sì, abbiamo di recente sviluppato all'interno di un progetto europeo in ENEA un sistema che si chiama Neutron Active Interrogation System, NAI come acronimo, che si occupa proprio della rivelazione sia del materiale radioattivo e fissile in particolare, sia del materiale esplosivo tramite l'interrogazione neutronica con un generatore di neutroni. Ecco, cosa vuol dire? Che voi gli sparate con questo generatore dei neutroni contro questo oggetto. E che succede? Succede che se c'è all'interno del materiale fissile avvengono delle fissioni e vengono rivelati i neutroni prodotti da queste fissioni. Qualsiasi materiale ci sia organico, c'è una emissione di raggi gamma che vengono rivelati da un rivelatore gamma apposito. Se c'è del materiale esplosivo vengono riconosciute le impronte. Le emissioni, il modo in cui comunque anche lui risponde a questi neutroni sostanzialmente. Quindi se ci sono tutte e due, se trovate nello stesso oggetto sia del materiale fissile radioattivo sia dell'esplosivo convenzionale, quella lì per forza di robe è una bomba sporca. Va bene, grazie, grazie Alessandro Dodaro. Grazie a lei, buonasera. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento come sempre a domani. Buona serata.